Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Stolmon Rock. Come avevo anticipato domenica scorsa, questa è l'ultima puntata prima della nostra pausa estiva, dove ci fermeremo praticamente, anzi ci fermeremo per tutto il mese di agosto. E come avevo anticipato domenica scorsa, ho qui in intervista, appunto per l'ultima puntata, vorrei dire parte, perché sono solo quelli che chi ci sta già seguendo su Instagram ne vede due. In realtà ho a disposizione tutta la band, quindi probabilmente ci sarà qualche cambio, qualche intervento anche dagli altri membri della band. Ma per chi non avesse visto la pubblicità che abbiamo fatto in settimana o comunque qualche giorno fa, qui per l'ultima intervista dell'ultima puntata abbiamo gli All Coasted. Momentaneamente sono qui con me Alberto e Christian, che risaluto per la terza volta, quindi ciao ragazzi, come state? Ciao, bene, benissimo. Una crema. Fantastici, meglio di così come chiudere questo weekend, no? In bellezza. Poi come mi avete detto prima che ci siamo sentiti, ovviamente per sistemare al meglio il discorso della diretta, siete in balotta, come dicevo prima, con tutta la band, moglie, figli e amorose e quant'altro, quindi per fare una super mega cena domenicale bella ci sta. Sì, è la cena aziendale di fine anno prima delle ferie. Bravo, sostanzialmente sì. Bilancio. Dobbiamo contare i soldi del punk rock. Tantissimi. Che abbiamo speso, sì. Beh, vabbè, dai, qualche piccolo rientro tra il merch ci sarà stato, tra qualche CD, qualche maglietta, anche gli amici per supportare la band c'è sempre, bene o male. Sì, sì. No, fantastico, fantastico. Io ho sempre una domanda di apertura che praticamente da quasi un anno a questa parte non scappa a nessuno. È molto semplice, è molto sostanzialmente anche molto popolare, per dare un attimo il via alla puntata, e semplicemente si basa su questo. Come saprete sicuramente anche voi, i NoFX il prossimo anno si scioglieranno, quindi sono già iniziate anche le ultime date del tour, quindi con la dote della sintesi vi chiedo un po' cosa sono per voi i NoFX. Allora, rispondo io. Vai. Rispondo io con la maglietta del Punk and Drumlick. Ottima scelta. Ah, però ovviamente i NoFX sono il gruppo che ci accomuna tutti e quattro. È il gruppo di ispirazione degli All Coasted in assoluto, nel senso che tutto quello che scriviamo e facciamo arriva da lì, più che da altre band arriva da lì. E ovviamente la notizia ci ha un po' scossi, però ci sta. Secondo me ci sta. Hanno fatto il loro tempo. Hanno fatto, sì, esatto. Sarà brutto non vederli più passare in Italia quella volta all'anno che passavano, però ci sta. Tanto più che siamo stati anche a Linz. Allo Spam Festival. Allo Spam Fest. E devo dire che sì, è stata super deludente il risultato. Dopo, comunque, li vogliamo bene. Quindi sono loro, ti diverti sempre al loro concerto. Però sì. Sono arrivati probabilmente alla frutta. Sì, anche perché ho sentito qualche recensione quando avevo i Wasei qui con Nad e Dani, anche loro erano stati in quello. Nad era stato in quell'occasione all'Inza, allo Sban Fest, e ha detto che purtroppo sacco di problemi di voce di Fat Mike e The Decline. Quindi, vabbè, l'importante è comunque che siano stati di ispirazione per tantissime band, e quindi ovviamente, come tutti molto spesso dicono, che dispiace, e vedremo. Adesso siamo ancora, non si realizza ancora effettivamente il discorso che i NoFX si sono sciolti, perché dici manca ancora un anno, mancano ancora delle date, quindi si spera che si riusciranno a vedere il più possibile. Però quando dirà effettivamente cazzo, questa è veramente l'ultima volta che io vedrò i NoFX, lì sarà un po' dura. Intanto saluto Nad, che è qui in collegamento come prima, Zizi che dice dovevate venire a tutti a Barcellona, che infatti è stata una delle prime date che hanno fatto qui in Europa, dove hanno detto che hanno spaccato praticamente il culo, la prima, poi forse anche la seconda, già dalla terza c'erano dei grossi problemi. Ma andiamo effettivamente a parlare con gli All Coasted. Intanto abbiamo aperto un dibattito su quelli che ci stanno seguendo su Instagram sul discorso di chi ha visto i NoFX in queste date. Intanto voi parlate, ma se volete commentare anche qualcosa con gli All Coasted siete liberissimi di farlo. EP, nuovo EP, Never Ending Puppet Show. Allora, la prima cosa che mi è saltata all'occhio, ovviamente, è un attimo la copertina, che mi ha ricordato tantissimo un richiamo a, a I Heard the Sex Live, oppure a, l'altro me, sono, me lo ricordo meno, They Have Actually, Actually Gotten Worse dei NoFX. Quindi mi confermate che ovviamente vi siete leggermente ispirati a quella come copertina, perché diciamo, diciamo che è stato un po' un tributo alla notizia, sì, della dipartita dei NoFX, esatto, e la scelta della copertina dell'EP. Ok, ok, infatti è, per, quello, per quanto mi riguarda è, era abbastanza chiaro, poi tu magari l'hanno voluta fare giusto così, tanto, un po' tanto per, ma in realtà immaginavo fosse principalmente, principalmente questo. Ma l'avete disegnata voi? Avete qualcuno che ve l'ha... Il grafico di questo EP è Dr. Pepper, okay. Dario Maggiore, che è un grafico italiano della Madonna, che salutiamo anche, ringraziamo di nuovo. C'è stato un sacco dietro, ma in realtà ci è piaciuto da subito quello che aveva disegnato. Sì. Ha capito quello che volevamo. Sì, ci siamo capiti subito al volo proprio. Perfetto. Sì. No, fantastico, bene, è bello trovare anche sintonia in queste cose. Anche, anche altri ragazzi che sono appoggiati a, ad amici grafici e quant'altro sono trovati sempre bene, come gli Stanis che, sono, che Cicco è qui, con, qui collegato, che sta seguendo la diretta, quindi con Marco Divertimenti, anche loro sono trovati strabene a fare la, la roba non eccessivamente DIY, ma effettivamente appoggiarsi a qualcuno che sappia esprimere al meglio, bene o male, anche a, a, in modo grafico, quello che uno ha in testa, e se il risultato poi piace tanto meglio. E un'altra, sì. Vai. No, scusa, non volevo interromperti, vai. No, dimmi pure, tanto è molto free. Ah, ok, secondo me è una cosa importante, è che sì, la musica, ma comunque anche come presenti il disco, cioè almeno io quando entravo nei negozi dei dischi, succede ancora. L'occhio vuole la sua parte, esatto, giustamente. Sì, è vero, effettivamente dici, anche se una band non la conosci, ti, c'è la copertina che ti colpisce e dici, magari adesso non mi compro il disco, però l'ascoltata gliela faccio, poi se mi piace mi comprerò CD, vinile oppure quant'altro, me li andrò a vedere da live, è vero, anche quello... Tutti i vinili che abbiamo venduto è stato così, cioè è piaciuta la copertina, dopo sicuramente avrò fatto cagare le B, però... È, vabbè, stata però, una mossa commerciale. Beh, vedi, esatto, alla fine ha funzionato. Quindi, se anche l'album non piace, alla fine voi l'incasso del vinile l'avete avuto. Quindi, chi se ne frega alla fine, dai. Poi, dopo, esatto, ovviamente ci sarebbe un messaggio dietro di quello che volete dire, ma alla fine passa di secondo piano. Dai, la copertina è quello che bisogna avere per a colpo d'occhio migliore. Ovviamente, sto scherzando, che non ve la prendiate sicuramente, perché. Guarda, siamo proprio, tranquillo. Ci piacciono queste cose, ci piace metterci anche in imbarazzo davanti alle persone, soprattutto quello. Quindi divertono. Figuri, sono io un pistola che cerco di ovviamente di sdrammatizzarli il più possibile. Cinque pezzi, di cosa parlate bene o male un po' in questi cinque pezzi, perché è il terzo EP, se non sbaglio, con un album alle spalle, quindi di roba ne avete fatta, ma andando avanti sempre di qualche pezzo alla volta, piuttosto che effettivamente. Intanto questo è l'album, per chi ci sta seguendo su Instagram c'è la copertina, come vi dicevo, molto, che richiama molto i due live di NoFX, e spacca, è molto figa, belli, bei pezzi, belli tirati, quindi se vi li volete andare a sentire in qualche live, tra poco diremo qualche concerto che magari hanno più avanti, oppure che dovrà uscire, se potranno dircelo. O intanto, dove lo potranno trovare, dove si può trovare in online il disco, che così buttiamo fuori anche questo. Allora, il disco, facciamo un attimo un'infarinatura del tutto, è stato stampato da Strike Records di Andrea Mengis, che penso chi ci ascolta conoscerà. È stato stampato in vinile e CD, quindi in due formati, esatto, supporti. Supporti, la parola giusta. Poi online, comunque Spotify, iTunes, insomma, soliti, sì, solo online. Si trova dappertutto. Un sito illegale russo. Un sito illegale russo, ecco, ci hanno detto. Ecco, che è una bella scaricarlo a gratis, sui siti illegali russi lo trovate. Sì, per noi è un traguardo. Loro sono sempre avanti, non so come facciano a trovare tutte ste robe, però effettivamente vedi che sui siti russi poi chiudono dall'oggi al domani, però finché se becchi il momento in cui sono aperti riesci a trovare tutto quello che ti interessa, però vabbè, dettagli a parte. Intanto andiamo un attimo, ci chiedevi di cosa parlano i pezzi. Sì, esatto, che così magari se vuoi dimmi nello specifico a Cauto Milk, uno dei pezzi che mi avete mandato da poter mettere, che così dopo ce lo andiamo anche a ascoltare. Beh, A Cow to Milk secondo me è il pezzo di punta dell'EP, nel senso che è quello che ha fatto già un 25.000 ascolti in due mesi, quindi tanta roba. A Cow to Milk è praticamente una specie di denuncia del fatto che le autorità cerchino di modificare la realtà dei fatti per farti sentire sicuro, capito? Per far sentire la popolazione sicura, cioè un po' una denuncia alla falsa democrazia in cui viviamo nel sistema, in questo ordine mondiale. Ok, dici tutto. Ecco, ci tengo a precisare che comunque i pezzi degli All Costed per il 99% hanno tematiche politiche, sociali, battaglie da portare avanti come da sempre il punk rock, ecco. Sì. Esatto. Quindi punk sì, ma con la testa, non solo delle robe in cui si fa semplicemente divertimento, i cazzoni e quant'altro. Praticamente dietro ogni testo di qualsiasi band, bene o male, c'è sempre qualcosa di protesto, comunque di qualche informazione da portare avanti. Quindi bravi ragazzi, non nulla lasciato al caso, giusto così. Tanto stavamo parlando nel fuori onda di un po' le influenze ska, quindi che hanno nel nuovo EP o comunque anche nella discografia precedente. Quindi stavi dicendo sul discorso dello ska che introducete un po' per staccare, che dato che piace meno male un po' tutta la band. Alberto, ti lascio continuare perché così no, dicevo che magari in un album di 10 pezzi c'è spazio per variare un po' col genere. In un EP di 5 pezzi l'obiettivo era quello di far capire il sound degli All Costed, di cosa è composto per il 90%, quindi punk rock bello tirato e sì, ecco qua. No, ci sta. No, vabbè, è giusto precisare un po' quello che la band di ispirazione ha di ispirazione, quindi è sempre giusto. Parlavamo prima un attimo di date, quindi avete già qualche data dove sapete che suonerete? O che potete dire? Allora, o che già qualcosa di confermato? Ditemi voi, sì? Io ve lo chiedo, poi dici se usciranno, aspetteremo. Non siamo in Metallica, quindi possiamo dirtelo. No, allora adesso faremo un agosto. Abbiamo fatto diverse date da gennaio fino a fine luglio, perché ne abbiamo fatte parecchie. Prendiamo agosto un attimo di pausa, perché come sai siamo anche genitori, quindi dobbiamo dare anche un attimo spazio alle famiglie, altrimenti ci buttano fuori. E quindi agosto sarà di pausa, poi a settembre riprenderemo, andremo a Terni per una data. Abbiamo i 2 settembre. Sì, ma è da confermare ancora, questa, quindi vediamo. Da vedere. Comunque andremo sì a Terni. E poi abbiamo questo festival che stiamo organizzando con i The Slurmies, che sono la nostra band di compari, diciamo. Amici di mille battaglie. Esatto, e di mille serate. Sempre da Vicenza, che salutiamo. Magari c'è qualcuno qua collegato, che io so. Cicciuz. E sì, quindi il 23 abbiamo il Borgo Punk Explosion, che è questo festival per il quale ci stiamo sbattendo parecchio, che vedrà anche Andrea Mengis come headliner della serata con i veterans. Ci saremo noi, All Costed, gli Slarmis, Lilians, che sono dalla Romagna, come Sladder e Flat Noise. Ok, quindi, interessante. Sì, è una prima edizione di un festival che manca, diciamo, nella nostra zona, quindi l'idea di crearlo viene da lì. Ci proviamo, vediamo come va. Ecco, la Martina, vedi, viene solo per i Lilians. Vabbè, giustamente. Sì, vabbè, ma ci sta, la capisco. E poi abbiamo ottobre, abbiamo qualcosina da confermare, anche novembre abbiamo... A novembre, sì, probabilmente usciremo dal Veneto a novembre. Poi, vabbè, abbiamo un po' di roba in ballo, però... niente ancora di confermato. Ok, quindi ovviamente sicuramente seguendo vari social, che possa essere Instagram e Facebook, nel mentre usciranno tutte le varie date. Sì. No, benissimo. Volevo anche farvi dire com'era andata la data che avete avuto ieri con i Ramjax, che così io ovviamente vi ho chiesto qualche piccolo spoiler, però vi avevo già anticipato che ve l'avrei chiesto anche qui in diretta, quindi ditemi come è andata anche in quella versione, in quella data. è stata una bella esperienza comunque suonare in apertura a un gruppo così comunque di caratura mondiale, comunque alla fine comunque siamo un gruppo che gira da un sacco di tempo. Abbiamo avuto una bella risposta, eravamo qui a Vicenza in casa, quindi è andata bene, siamo stati contenti, bella, tutto organizzato bene, bella risposta del pubblico, è stata una bella, un bel venerdì sera è stato. E abbiamo venduto anche dischi, abbiamo venduto, quindi anche dischi. Vuol dire che piacciono, piace la copertina, vedi, vedi, vedi, però lì capisci se piace la copertina o piacete voi, nel senso, se il disco viene comprato prima del live è la copertina, se il disco viene comprato dopo il live vuol dire che eravate voi, quindi secondo me lì avreste, potreste avere già un'idea su quello che è, su quello che effettivamente è il vostro prodotto. Ovviamente scherzo sempre, perché, ripeto, perché magari dici che sto cazzo ci ha chiamato per insultarci e dici ma che cazzo no, era in realtà spettano questa cosa, sì, quindi sì. Se vuoi insultarci senti. No, no, ma lo faccio sempre con ironia, perché cioè, siete bravi e mi farebbe piacere di vedervi live o da queste parti o magari di spalla a qualcuno di conosciuto, quello che è, quindi spero di vedervi comunque in qualche data che avete avrete più avanti. Ultimi minuti prima della prima pausa. Parte, vabbè, mi sono un attimo incartato, sempre qui in collegamento con gli All Costed, precisamente con Alberto e Cristian. Aspetta che arriva il turbo, eh. Esatto. Adesso vi facciamo vedere. Stavo spegnendo la sigaretta, pensavo si fosse alzato per farsi vedere. Ma devo salutare Ciccio. Ciao Ciccio. Ciao a tutti. E questi, per chi ci sta seguendo su Instagram, erano gli altri due membri della band. Ricordiamo che sono in quattro, non sono in due, ma ogni tanto capita di avere tutti. E chi erano? Che non ho visto. Cioè, non so come si chiamano. Scusate, ragazzi. Chi? Ragazzi. I due ragazzi. Ah, scusami. Allora, lui è Cuzze. Ok. Batterista. Suona la batteria, suona i tamburi. Bene. Tamburi. E lui è Turo invece. Ok, ho prova, sì, fa le figura, ma non ci voleva un altro da mettere nel palco. Sì, allora sì. Abbiamo detto beh, bello da vedere. Sparo minchiate finché suoniamo. Questo è il mio lavoro principale. Okay, però lo fa molto. Beh, vabbè, dai. Anzi, adesso te lo metto qua al posto mio. Che così parla un po' qui, ok? Va bene. Non è vero. Se volete intercambiarvi nessun problema. Tanto ho modo di poter mettere anche un altro pezzo prima di effettivamente andare a chiudere la prima parte della trasmissione, e ci andiamo ad ascoltare With Blinkers, che è il pezzo che l'altro pezzo che mi avete mandato anche qui, di un po' With Blinkers cosa significa, che io l'ho collegato ai Blink 182, però non penso che c'entri. No, con no, non c'entra niente. Vuol dire paraocchi. Ah, ok. I paraocchi, sì. È un testo impegnato, è una canzone molto difficile, come diciamo sempre in live, da fare. È una canzone molto difficile da suonare e quindi ci vantiamo di questa cosa, perché dopo che l'abbiamo finita diciamo che questa cazzo era difficile, applaudite, perché sennò vale la pena. Di chiara ispirazione NoFX, questa sì. Proprio al 100% è bella, carica da fare. Sì, è un hardcore melodico scanzonato, con bei cori e tutto. No, bene, bene, ci vuole anche il pezzo quasi di che richiama un'altra band, perché dici così rimanete più in testa, dici cazzo quelli ricordano un sacco in FX, quindi me li vado a riascoltare. Bra, ci sta. Un po' no use for a name forse. Sì. Per la velocità, diciamo, comunque la nostra ispirazione è quella, no use for a name, no FX, Bad Religion, Rancid, quindi Non ci allontaniamo molto del genere. No, va bene. Bisogna che ci sia qualcuno che mantenga vivo questo lato di punk, piuttosto quelle robe un po'. Dico semplicemente che a me non piacciono, che quelli che accomunano trap e punk, un po' come possono essere la Sed o quell'altro, però. È un altro discorso che magari ne parleremo leggermente nella seconda parte. Intanto, come dicevi, ma anche no, quindi esatto, chi se ne frega, giustamente. Ma due parole, dai, da sempre farle. No, perché le due parole solitamente saltano fuori degli insulti, delle cose che non noi da vecchi alla fine, perché siamo dei vecchi, dici che è sta roba. non apprezziamo come magari apprezzano i ragazzini, che magari poi si spera sfocino nel vero punk rock, quello che effettivamente è la musica, che bene o male ascoltiamo noi. Però comunque questi sono bene o male sempre pensieri personali che più o meno ognuno ha. Seconda parte di Let's Talk More Rock, e intanto, come dicevo, sono riuscito anche a sfangare questa pubblicità su Instagram mantenendo più o meno l'interesse di chi ci sta seguendo. E siamo sempre collegati con Christian ed Alberto degli Orcosted, dove stiamo parlando del loro nuovo EP Never Ending Puppet Show, terzo, giusto se non ricordo male? Sì, terzo EP. Terzo. Un album e qualche singolo. Ok, quindi parlando già magari per cose più avanti, dato che avete fatto 5 pezzi in questo EP, avete già qualcosa in cantiere che butterete fuori tra un pochettino per un possibile album o effettivamente un altro EP, oppure quello che viene? Allora, secondo me il prossimo sarà un album. Ok. Siamo già al lavoro sui pezzi, sì, abbiamo già un 3-4 pezzi non pronti, ma ci stiamo lavorando. Comunque sì, sarà un album il prossimo. Benissimo. Anche se, e adesso facciamo un intervento per parlare un po' di attualità. Sì. Della discografia. Aspetta, scusami. Questa era la barzelletta, quelle di prima. Ah, ok. Ok. Questa era la barzelletta di 4 pezzi già fatti, era questa la barzelletta. Adesso potete ridere tutti. Era velata. Comunque sì, per una band nel 2023, adesso discorso serio, un attimo parentesi, una band deve capire se vuole fare l'album, cioè la strategia di pubblicazione, perché secondo me al giorno d'oggi la strategia migliore è lanciare un singolo ogni tot, tipo ogni mese, e racchiudere il tutto in un album. Quello lì era una birra che si apriva. Sì, alla fine di... Capito, perché purtroppo con tutti i siti di stream che ci sono oggigiorno, lanci un album, 3-4 pezzi funzionano, gli altri passano proprio in sordina. L'abbiamo visto con quello precedente, è stato così. Abbiamo fatto un album nel 2019. Ma anche con questo EP comunque, perché su 5 pezzi, 3 abbiamo visto che sono stati seguiti, funzionano, altri 2 che secondo me valgono lo stesso, meno. Guarda, questo sinceramente è un discorso che molto spesso salta fuori, col fatto che la fruibilità della musica adesso è all'ennesima potenza, cioè la puoi ascoltare letteralmente dovunque. Quindi finché se non riesci a stare, diciamo, sul pezzo con dei brani che siano, possono essere mensili, settimanali o ogni 2 mesi, per poi arrivare effettivamente al prodotto finito che possa essere EP o album, è un attimo che va nel dimenticatoio. Cioè, come puoi essere sopra, ascoltato il più possibile finché c'hai il singolo, ma appena scema il discorso del singolo, dici vabbè, non c'è nient'altro di nuovo, chissà, faranno qualcosa, intanto mi ascolto, mi sono in fotta con quest'altra band, e intanto il pezzo che posso, non solo vostro ma di tutti, va adesso c'è molta cosa. C'è una cosa che esce, c'è già il nostro disco, è uscito quasi 2 mesi fa, non dico che ormai sia vecchio, però non è che, non so se arriviamo a fine anno che è ancora una novità, magari 10-15 anni fa sarebbe ancora per un anno tipo era una novità. Sì. Adesso è tutto così, tutto rapido, quindi devo sempre avere materiale nuovo. Diciamo che è un po' il cancro della discografia, no? Sì. Cioè, nel senso, lanci una cosa oggi, domani è già vecchia. Sì, è purtroppo triste, è un po' triste questo, perché effettivamente dici, cazzo, mi sono sbattuto tantissimo per fare sto pezzo, che sia a livello di strumenti o di testo, e dici, voglio che, mi piacerebbe che avesse un impatto maggiore rispetto a quello che è 10 anni fa, 15 anni fa avrebbe avuto effettivamente l'impatto e l'ascolto giusto, adesso è una cosa tra le tante. Purtroppo sì. Poi c'è da mettere in conto anche che genere vuoi fare, nel senso che gli Orcosted fanno un genere internazionale, chiamiamolo, no? Di nicchia. Di nicchia. Cantato in inglese, quindi, cioè, i maggiori ascoltatori noi ce li abbiamo dagli Stati Uniti, dal Giappone, Germania, Australia, l'Italia è tipo al decimo posto. E dici, cavolo, okay, sono italiano, dov'è il supporto della scena italiana? È sempre purtroppo anche questo è un discorso che ciclicamente torna con torna con tantissime interviste che ho fatto e lì capisci effettivamente che la scena italiana c'è, dici ah io supporto la scena, poi effettivamente vai a vedere nello specifico, sono sempre quelle quattro persone che cerca di sbattersi il più possibile e poi alla fine finisce lì perché dici vabbè pazienza, mi continuo ad ascoltare i band X perché vabbè, però che poi possa piacere o meno, cioè, però ti dirò mi ha stupito molto non perché non me lo aspettassi ma perché come dici tu la scena italiana dov'è? Boh, non si sa, cioè, è tutto un po' a spot, no? Però mi ha stupito molto l'ultima uscita dei Bull Brigade, che tra l'altro salutiamo amici, ci siamo visti anche ieri sera perché hanno suonato nel festival dove abbiamo suonato noi venerdì e hanno suonato loro ieri sera, salutiamo Eugi e tutta la crew, e per me loro sono stati epocali, nel senso che il fuoco non si è spento, è stata veramente una bomba, cioè ha svecchiato quella cosa fatta un po' di nostalgia degli anni 2000, quei vari The Rozer, Pancras, Shandon, eccetera, eccetera, che alla fine erano sempre quelli, e arrivano in Bull Brigade e boom, capito? Sì. Super seguiti, album ha funzionato tantissimo, bellissimo album, suonato bene, quindi la scena c'è. Il problema è che in Italia, secondo me, non sono pronti per una scena internazionale, sono pronti per una scena italiana, ci sta, è fisiologico. No, giustissimo, giustissimo. Intanto, dopo questo momento serio alla fine, perché obiettivamente abbiamo parlato di cose giuste comunque, di quello che un po' ci circonda e ci appassiona e ci accomuna, e rientriamo per la seconda parte, come dicevo prima, già iniziata di Storm Rock. Ci eravamo incammellati un attimo in un discorso molto particolare che ti lascio finire qui in diretta per il discorso della scena italiana e quant'altro. Vai. Sì, no, dicevo che non è la scena in sé il problema sono le situazioni da creare, nel senso che un bay fest, un punk rock raduno, dove peraltro abbiamo suonato in entrambe le situazioni, la scena c'è, ok, il supporto c'è, i fan ci sono, sì, il problema è proprio creare queste situazioni a tappeto. Sì. Capito? Sì, dici se magari la situazione punk rock raduno o che altro funziona, perché dici ma anche il Distruggi la Bassa, per dire, ieri che sono stato alla seconda giornata di Distruggi la Bassa con Terror Cigar e tantissime altre band italiane, Short Fuse, Rappresaglia e quant'altro, era una bella situazione, a me è piaciuta, molto, molto tranquilla, però di gente ce n'era, quindi vedi, sono quelle piccole cose che dici raggruppate tutte insieme bene, funzionano, poi le vai a prendere alle volte un po' sparpagliate, vedi che già c'è un po' meno, però dici ovviamente non si pretende che nel festival ci sono, la butto lì per fare dei conti semplici, 1000 persone, la stessa band che ha suonato nel festival torna in Italia e deve, oppure è italiana e fa un'altra data da un'altra parte, deve esserci 1000 persone, però dici una sorta di costanza ci dovrebbe essere, secondo me, però se c'è tanta scelta funziona, se c'è poca scelta dici vado a vedere quella band, ma mo mi ci penso. Beh, vabbè. Dopo è un discorso così ampio che veramente dovremmo stare qui 2 giorni. Esatto, ma intanto torniamo agli All Concert, perché sennò che cazzo va chiamato a fare alla fine, no? qual è il vostro pezzo preferito? Molto semplice e diretto di quest'ultimo EP. Beh, semplice no. No, ci piace di più singolarmente ognuno di noi. Tu di la tua. Beh, a me quello che piace di più è A Cow to Milk. Ok. A me. È bello da suonare, mi piace come è riuscita, alla fine avevamo un'idea e quell'idea è stata, e sono super soddisfatto di quella canzone lì. Ok. E poi ditemi anche voi. No, anche per me A Cow to Milk, ma il discorso in generale, no? Il pezzo arrangiato meglio, che funziona meglio, che è più diretto, A Cow to Milk. Dopo se mi chiedi qual è che ti diverti di più a suonare, allora potrei dirti With Blinkers o Never Ending Puppet Show. Ok? Ok. E adesso non so. E poi Cuzze, ragazzi, tu, anche Cuzze dice Never Ending Puppet Show. Turu dico Will Blinkers. Linoleum, ma lui piace Linoleum. Suona... Quindi lui, essendo chitarrista, tutti i pezzi che tirerà fuori saranno delle sfumature di Linoleum, giusto? Ovviamente, perché quello sappiamo fare. Quindi, vabbè. Vabbè, dici... Ma se non avete mai sentito gli Holocausted prima di questo EP, no, fatto. La canzone più bella qual è? My Only Will, è la mia canzone preferita di tutte quelle che abbiamo fatto. Ok, si chiama My Only Will, che lo trovi sull'unico album che abbiamo fatto. Ok, quindi Time Flies When You're Drunk, che è uscito nel 2019. Sì. Per nessuno, per noi probabilmente. Voi e basta, e voi. Va bene. E sì, quella è vero, quella è la mia preferita. Dopo spacca. No, sì. beh, chiaro. Ma c'è il pezzo che magari dici ok, lo suono, ma non c'è mezza voglia di suonarlo? Dici quella volta che dici magari a tre quarti piace, a uno dici vabbè, rega, lo faccio perché siete miei amici e a voi piace un sacco, però a me... Sì, capita. Beh, cioè, allora adesso possiamo dire che di canzoni ne abbiamo, nel senso che con tre EP, un album, due singoli, ne abbiamo tanta di roba. Le situazioni in cui ci troviamo a suonare ci costringono sempre a una mezz'ora di set, quindi devi selezionare 10 pezzi. I migliori, sì. Quindi al momento i 10 pezzi, penso parlare a nome di tutti, ci piacciono tutti. Siamo tutti quanti. Okay. Se poi mi chiedi nella discografia degli Holocausted c'è roba che non vorresti più suonare? Sì, sicuramente. Pezzi registrati che ho suonato due volte in live. Forse anche mai. Ecco, no, sì, capita quel pezzo che dici ai tempi, tipo ti possa essere 5-6 anni fa, piaceva perché c'erano altre idee in testa, poi andando avanti, modernizzandosi, passati un attimo il termine, avendo altre magari influenze, dici quel pezzo potevamo farlo un pochino meglio, oppure è passato un attimo di moda, però ci sta come ragionamento. Poi dopo, cioè, in una band entri che, tipo per fare l'album che abbiamo fatto le stesse canzoni un anno e mezzo, quindi capito che alla fine arrivi a fare le like e ne hai due coglioni giganti. Certo. Questo sì. Ma ecco, poi questa è proprio una prerogativa degli Holocausted, nel senso, un pezzo può essere anche bello, ma ci accontentiamo veramente difficilmente noi, cioè ci stanchiamo, vogliamo fare sempre qualcosa di nuovo, quindi questa cosa è all'ordine, sì. È all'ordine del giorno. Ok. Cosa mettiamo in scaletta? No, basta, quella là, basta. Facciamo questa qua, capito? No, quella là, no, sì, penso sia l'altro. No, va benissimo, no, ci sta. Volevo chiederti un'altra cosa che mi era venuta in mente adesso, ma banalmente parlando, chiacchierando, mi è sfuggita di mente. Quindi, mentre ci penso, perché... Mi è sfuggita. Dato che la cosa che volevo dire mi è ufficialmente dimenticata, io sono praticamente agli sgoccioli della puntata. Grazie ragazzi per la divertentissima intervista, molto tranquilla, di cui abbiamo parlato del vostro EP. E come, vi ripeto, mi piacerebbe un sacco vedervi da live, quindi spero che riuscirete a venire a suonare qui, anche qui in zona, o effettivamente suonare a qualcuno di super mega conosciuto, che così avrete anche voi disponibilità di avere un pelino più di visibilità. Aspetta, prima brevemente il discorso di suonare all'estero, o magari di cantare in italiano, ce l'avete in testa o vedrete più avanti? Allora, suonare all'estero sì, però non è facile da organizzare, però l'idea c'è. Sì, ci stiamo un po' barcamenando con questa nuova attività. Cantare in italiano no. Ok, secco, perfetto, benissimo. Nasciamo comunque come un gruppo di ispirazione del punk rock anni 90 californiano, quindi sì, cantare in italiano forse sarebbe anche un po' fuori luogo, credo, no? Vai. No, ci sta. Guarda, allora dico, Io e Kut, il batterista, abbiamo fatto 10 anni con una band punk rock che facevamo punk rock italiano, e quando è stato il momento di chiudere, di aprire un nuovo capitolo, la cosa che ho detto basta con l'italiano. Ok. Sì, o lo scrivi perché... bene, se no risulta, ma cioè, alle volte banale. Al di là di scriverlo, questione di pubblico, come ti dicevo prima, i maggiori ascoltatori che abbiamo sono australiani, americani, tedeschi, inglesi, quindi noi lì vogliamo andare. Ci sta. È un po' il nostro obiettivo, no? No, no, giustissimo, giustissimo. Bene, io sono arrivato, come dicevo prima, effettivamente a fine puntata, così ho modo di salutarvi e mettere l'ultimo pezzo che mi avete mandato, che è Never Ending Puppet Show. Quindi, come titolo, cosa ci racconta? Così, l'ultimissima domanda, poi vado a chiudere. Never Ending Puppet Show, sì. È proprio un testo rivolto alla politica italiana. Ok, immaginavo però... Quindi ecco, fin troppo da dire. Sì, c'è fin troppo da dire, esatto. Quindi però direi che già con questo abbiamo capito, con Puppet, Pupazzi e quant'altro, cosa si potrebbe, ecco, parlare di questo. Io quindi dicevo, ragazzi, è il teatrino senza fine, no? Eh? Non ho capito. È il teatrino senza fine, intendo. Esatto. E come dicevo prima, sono arrivato a fine puntata, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per questa ora passata insieme di risate e quant'altro. Come vi dicevo, spero di vedervi da live, quindi io vi saluto, vado a chiudere la puntata, e quindi salutate anche voi, che così vado effettivamente a chiudere la puntata. Ciao ragazzi, grazie mille a tutti quanti, e ci vediamo in giro. Continuate a seguirci, continuate ad ascoltare, che così prendiamo i soldi del pancone. Oh, sì, bravissimo. Io, ragazzi, io risaluto di nuovo gli All Cost e gentilissimi per la disponibilità di questa ora passata insieme. Ciao a tutti, buon pancone a tutti, e ci rivediamo ai primi di settembre. Ciao. Ciao ragazzi.